respiro. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Respiro, puntata interamente dedicata ai rifiuti, con un occhio però sempre verso Copenaghen, la città dove si sarebbe dovuto siglare un accordo storico per il clima e che invece da oggi sarà la città che si appresta a vedere passare ancora una volta studiosi ed esperti che praticamente senza essere ascoltati o se non vogliamo essere così pessimisti, essendo ascoltati in parte, diranno quanto è grave la situazione. Prima dunque di entrare nel vivo della puntata, diciamo qualcosa su Copenaghen, svuotato del suo vero senso il vertice sull'ambiente. COP15 resta con qualche obiettivo da raggiungere, ma non con quelli principali che tutti quanti noi ci aspettavamo, anche se ormai era da tempo che si capiva che sarebbe andata a finire così. L'obiettivo, dicevamo, iniziale era quello di raggiungere un accordo globale sul clima, sulla traccia di Kyoto, ma rinforzando alcuni paletti. Si partiva dall'assunto che nel 2007 gli scienziati e gli esperti avevano detto chiaramente che un ritardo nella lotta ai cambiamenti climatici sarebbe stato rischiosissimo per il pianeta, che avrebbe minacciato le condizioni di vita per centinaia di milioni di persone, e i problemi sono sempre gli stessi. Si va dal livello dei mari che aumenta, sono cresciuti di circa il 30% in più di quanto previsto, si va a toccare anche il tema dello scioglimento dei ghiacci dell'Artico, che sta avvenendo in anticipo di 30 anni rispetto a quanto ci aspettassimo. Dunque il futuro è questo. Il passato prossimo ci dice che, ad esempio, il 66% dei profughi registrati nel 2007 sono persone che sono state colpite da catastrofi naturali o da mutate condizioni dell'ecosistema, e i dati sono dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU. A Copenaghen si sarebbe dovuto tagliare le emissioni di CO2 per non far salire la temperatura globale sulla Terra di 1,5-2 gradi. Per fare questo si dovevano fare fondamentalmente due cose molto impegnative e molto grosse: tagliare l'80% almeno entro il 2050 dei gas serra, e la seconda cosa, un po' più vicina, nel 2020 le emissioni che alterano il clima dovevano essere ridotte del 40%. E poi, e questa è un'altra cosa che era molto importante, e vedremo invece a quale accordo si arriverà, l'altra cosa, dicevamo, era l'investimento di soldi. Si era pensato di investire 110 miliardi di euro l'anno per permettere ai paesi in via di sviluppo di fronteggiare gli impatti del cambiamento climatico, che in qualche modo erano somme che dovevano essere aggiunte agli aiuti allo sviluppo già previsti dai governi. Quello che succederà, ovviamente, staremo a vedere, ve lo racconteremo. Ci saranno nel corso del vertice di Copenaghen moltissimi inviati della radio, del Sole 24 Ore, noi faremo degli speciali interamente dedicati all'argomento, ma ormai quasi tutti gli esperti, quelli più ottimisti e quelli più pessimisti, dicono che si faranno delle cose di mezzo, utili sicuramente, ma non incisive. Non so, ad esempio, si individueranno gli strumenti per la lotta alla deforestazione, che oggi è responsabile del 25% delle emissioni globali di gas a effetto serra, o ad esempio un'altra cosa su cui si punterà è assicurare la gestione multilaterale democratica dei fondi per la lotta ai cambiamenti climatici. Ma di fatto tutto slitterà al prossimo vertice sull'ambiente, COP16, che si terrà a Città del Messico. Torniamo invece ora ai rifiuti, altro tema caldo che pesa sulle emissioni di CO2 e non poco. Questa settimana all'Università Bocconi di Milano è stato presentato un volume, un libro che fa seguito a una ricerca durata 2 anni che ha portato a mappare e raccontare la storia dei rifiuti nel mondo. Una ricerca molto interessante che ci racconta quanta immondizia produciamo, quanta ne ricicliamo e quali paesi lavorano meglio, perché e quanto ci guadagnano. Chi ha commissionato la ricerca è Veolia, che è una società internazionale con sedi in tutto il mondo che si occupa soprattutto di rifiuti. Enrico Guggiari, amministratore delegato Veolia Servizi Ambientali. I rifiuti al mondo sono 4 miliardi di tonnellate, rifiuti che però sono disomogenei nella loro produzione, perché in funzione della ricchezza del paese così vengono prodotti, e quindi esistono delle statistiche, sono state fatte delle statistiche che vanno a individuare per ogni paese qual è il la problematica del singolo paese, per arrivare poi a relativizzare il problema sull'Italia e capire quali sono le tecnologie, quali sono le metodologie migliori per il trattamento anche qui in Italia. Ci sono una serie di politiche, atteggiamenti che noi abbiamo in Italia e che sono assolutamente condivisibili, perché i quattro punti fondamentali sono la riduzione della produzione dei rifiuti come primo punto, il secondo lo sviluppo della raccolta differenziata, la terza parte la riduzione dello smaltimento nelle discariche, appunto per scendere dal 50% a delle percentuali più ecosostenibili, perché le discariche producono CO2 e quindi sul riscaldamento della terra. E quarto, l'incenerimento e il recupero, ed il recupero appunto incenerimento che passa attraverso la termovalorizzazione, quindi la produzione di energia elettrica. Tutto questo, questi punti però hanno bisogno di supporto anche di tipo finanziario, e quindi una delle domande che ci stiamo ponendo oggi è come finanziare uno sviluppo di questo genere alla fine di impianti per la termovalorizzazione. Ce ne sarà bisogno almeno una cinquantina in Italia, e questo vuol dire 7 miliardi 500 mila euro di investimenti che chiaramente il privato non può soddisfare, e che bisognerà trovare il sistema per finanziare. Oggi iniziate un convegno con in qualche modo una brutta notizia, no? Che arriva su COP15, quindi Copenaghen, perché lo sapevamo un po' tutti da parecchio tempo, però oggi in qualche modo abbiamo avuto la certezza che a Copenaghen non si arriverà alla conclusione, a tirare le somme di quella che è l'emergenza per il nostro pianeta. Quindi peserà in qualche modo su questo convegno anche l'atteggiamento dei grandi rispetto ai temi dell'ambiente, che quindi riguardano anche il tema dei rifiuti e di quello che diceva lei anche dell'investimento di denaro, no, per risolvere il problema ambientale, il problema dei rifiuti. Certamente, perché se lei vede i paesi più ricchi sono anche quelli che tendono a risolvere il problema dei rifiuti con maggiore solerzia. Il nostro problema purtroppo in Italia è un po' più limitato, e sarebbe già una grande cosa se noi riuscissimo ad avere leggi più semplici, chiarezza nelle autorizzazioni, chiarezza in tutto quello che è il sistema e le procedure per far avanzare appunto i progetti che abbiamo in corso. Purtroppo la politica, con più si va verso il sud, con più i rifiuti si riempiono di significati politici. Vi piacerebbe andare al supermercato con dei sacchi pieni di bottiglie di plastica, barattoli di alluminio vuoti, depositarli in un impianto e avere in cambio per ogni bottiglia 2 centesimi? Questa cosa che vi ho appena descritto si chiama EcoBank, è un progetto per ora pilota presente in 2 città italiane, Alessandria e Valenza. Di cosa si tratta, come funziona, da cosa nasce, ce lo siamo fatti spiegare da Carlo Venturato di EcoBank. EcoBank è uno strumento intanto unico nel suo genere. Perché? Perché mette le tecniche di progettazione e gestione tecnologica più avanzate a servizio dell'ambiente e della collettività. Questo perché permette innanzitutto di trarre vantaggio alle pubbliche amministrazioni perché riducono notevolmente i costi di raccolta differenziata, ai cittadini di ottenere un introito in denaro dalla differenziazione dei rifiuti, conferendo in EcoBank bottiglie in PET e lattine in alluminio e acciaio. Innanzitutto questo progetto nasce dalla consapevolezza e dalla voglia di Tradingenia la nostra società che commercializza e distribuisce questa postazione automatica, di dare un servizio all'ambiente, quindi di dare un segnale forte alla raccolta differenziata di qualità. Questo è il progetto, diciamo, per come volevate che partisse, ma di fatto se possiamo entrare più nello specifico tecnico, stiamo parlando di un meccanismo che sfrutta il concetto di vuoto a rendere. Ecco, ci può spiegare, se io come cittadino ho delle bottiglie di plastica in casa, cosa faccio se nella mia città c'è questo EcoBank? Allora, EcoBank è una postazione automatica, è una macchina che a fronte del conferimento di bottiglie, quindi il cittadino può portare presso EcoBank le bottiglie di plastica in PET, sia trasparente che colorato, che lattine in acciaio e alluminio, e conferirle all'interno della macchina. La macchina le riconosce in quanto bottiglie dell'uno o dell'altro materiale, le compatta e le va a stoccare in grandi quantità su recipienti interrate, che poi successivamente possono essere svuotate dalla municipalizzata. Questo a fronte di un bonus: l'utente che ci dà le bottiglie, che conferisce le bottiglie all'interno di EcoBank, riceve 2 centesimi a imballo. Ecco, ma come fate voi a dare questi 2 centesimi? Ci spieghi un po' qual è il meccanismo che vi porta ad avere denaro contante da dare a chi vi porta la bottiglia? Certo, allora nella macchina non c'è denaro contante, però questi 2 centesimi vengono erogati dagli esercizi commerciali che entrano a far parte del circuito convenzionato con EcoBank. Nei 2 progetti che sono partiti e che attualmente sono in funzione, a Valenza e ad Alessandria, funziona molto bene ed EcoBank è molto apprezzata dagli utenti che la usano. E quindi, come le dicevo, a fronte del bonus può essere scaricato, diciamo così, all'interno dei 2 supermercati che hanno stretto la convenzione con EcoBank. Il supermercato attua una strategia di questo tipo: innanzitutto lega la sua immagine a un progetto che è sostanzialmente pro ambiente, quindi è tutto un ritorno di immagine, un investimento di marketing che può fare, e poi è un discorso di fidelizzazione del cliente, innanzitutto, perché lo scontrino o questo bonus che EcoBank eroga può essere in ogni caso riscosso in quel supermercato, non in altri esercizi. Naturalmente anche l'utente è molto sensibilizzato da questo fronte e naturalmente è ricompensato anche dal vantaggio economico che ha nel fare questo, riceve un bonus che, poco tanto che sia, è sempre un'agevolazione economica nel conferire la bottiglia. È partito anche un nuovo progetto con la municipalizzata di Venaria, è un comune del piemontese, in cui EcoBank verrà installata in questo comune, e il comune, avendo in gestione parcheggi, tram, mense scolastiche, piscine, bike sharing, farmacie, allora, e avendo tutti questi servizi comunali integrati in un'unica card multiservizi, quindi il cittadino è dotato di una card che è praticamente denaro, cioè ricarica e poi spende nei vari circuiti di servizi comunali. Allora, EcoBank è stata interfacciata con questa card, il cittadino quindi conferisce gli imballi in PET e alluminio e acciaio, si vede accreditare un bonus che viene incamerato nella card e poi lui spenderà nei vari servizi comunali che vengono messi a servizio dall'amministrazione. Ecco, dottor Venturato, mi resta una perplessità su EcoBank, nel senso che va a toccare quella parte della differenziata che insieme alla carta funziona molto bene, soprattutto al nord, ma sta cominciando a funzionare bene anche al sud. Perché avete scelto di fare questo lavoro e vi siete chiesti se c'era, non so, qualche screzio sul piano proprio pedagogico, nel senso che comunque in un paese dove la differenziata si deve fare, andare a pagare qualcuno perché la faccia forse può essere diseducativo? Beh, EcoBank è un progetto che va ad integrarsi ad un sistema esistente, non vuole essere una sostituzione del sistema esistente, anzi si integra perfettamente producendo una differenziazione di qualità, perché il prodotto di qualità nella raccolta plastica è il PET, ciò che ha valore, il PET, l'alluminio, e molte volte viene disperso oppure ci sono costi molto elevati per la selezione. Tutto ciò che noi differenziamo per quanto riguarda la plastica finisce in un contenitore unico, però ciò che effettivamente ha valore, come le dicevo, sono questi materiali nobili che poi vengono destinati al riutilizzo e non vengono poi selezionati con costi aggiuntivi e magari mandati in discarica o all'incenerimento. Noi siamo una società di Bolzano e nel nostro DNA c'è sempre stata la voglia di applicare la tecnologia alla raccolta differenziata e quindi alle soluzioni rivolte all'ambiente. Ci occupiamo da molto tempo di gestione differenziata di rifiuti, l'applicazione di soluzioni innovative, progettazione di nuovi sistemi ed EcoBank è uno di questi. È maturato dalla volontà, appunto, come le dicevo, di creare qualità nella differenziazione. Tutto qua. Respiro termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Come sempre, vi rinnovo l'appuntamento il sabato alle 16.30, la domenica in replica alle 14. Potete scriverci a respiro@radio24.it o riascoltarci sul sito di Radio 24 andando a cercare la pagina di Respiro. Grazie e buona giornata da Cristina Carpinelli.